Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buona giornata, buon venerdì a tutti da Deborah Rosciani, dalla redazione di Salva Danaio. Da 3 giorni le borse danno respiro agli investitori. Questa settimana le piazze finanziarie internazionali hanno brindato ad alcuni buoni indicatori macroeconomici che hanno fatto riaccendere le speranze sulla possibilità che l'economia mondiale possa evitare di ricadere in recessione come molti temono. E sono servite anche le indicazioni della Banca Centrale Europea, che ieri ha fornito segnali ottimisti sulla ripresa di Eurolandia, anche se i tassi di interesse sono stati mantenuti invariati all'1%, livello sul quale è assai probabile che rimarranno ancora per un po' di tempo. In questa situazione, però, negli ultimi giorni sono tornate ad invocare un po' di attenzione generale anche le obbligazioni governative, i titoli di Stato. Il settore si è rimovimentato sensibilmente per tante ragioni, sia perché le valute hanno rimesso in moto un circolo da monitorare a causa della corsa inarrestabile dello yen, della moneta giapponese, sia perché una decina di giorni fa l'agenzia di rating Standard & Poor's ha ridotto il suo giudizio sul debito sovrano dell'Irlanda a seguito del peggioramento delle condizioni finanziarie della Anglo-Irish, la banca nazionalizzata un anno fa e che ancora non riesce a rimettere in sesto il suo bilancio. Questa vicenda ha di nuovo spalancato gli spread, cioè i differenziali di rendimento dei titoli di Stato delle principali economie europee rispetto ai titoli tedeschi, che sono tradizionalmente il riferimento di mercato. Spread che si sono portati su nuovi record, e anche il Tesoro italiano, tanto per tornare all'interno dei nostri confini, ha chiamato l'appello risparmiatori ed investitori con diverse aste, tutte concluse con successo per fortuna, ma con meno famiglie e più investitori istituzionali. E allora questo è un po' il quadro di riferimento, e alla luce di tutto questo, che occasioni di investimento avremo tra i bond governativi in questo autunno che si va aprendo? Questo è il tema che ci piacerebbe affrontare questa mattina insieme a Paolo Federici, Country Head per l'Italia di Fidelity International, responsabile della distribuzione di una delle più grandi società mondiali di distribuzione e gestione di fondi di investimento. Federici, bentornato a Salva Danaio. Grazie mille, buongiorno. E un amico di Salva Danaio, Angelo Drusiani, responsabile delle gestioni di banca Albertini Sitz. Drusiani, bentornato e buongiorno anche a lei. Grazie molto, buongiorno a tutti. Spero che abbiate passato delle vacanze serene. Sicuramente un po' movimentato è stato il quadro di mercato, e magari insomma gli esperti di investimenti non hanno dato modo di staccare completamente la spina. Magari anche questo ce lo faremo raccontare questa mattina. 800 24 00 24, il numero verde che vi dà l'opportunità di fare una chiacchierata con noi e fare le vostre domande ai nostri ospiti, oppure scriveteci al 349 238 6666. La borsa questa mattina è positiva, era partita benino, poi c'è stata una marcia indietro, un po' di rallentamento che addirittura aveva fatto scivolare in territorio negativo Piazza Affari. Adesso si recupera di nuovo ovunque, più 0,7% a Parigi, più 0,45% a Francoforte, più 0,55% Londra, più 0,41% Piazza Affari. Euro su dollaro a 1,28,38, quindi diciamola all'inglese, anche se non ci piace utilizzare questi termini, il sentiment, il mood, insomma il clima sembra piuttosto positivo ancora una volta di nuovo stamattina. C'è sicuramente ancora il riflesso di queste considerazioni fatte ieri dal governatore della Banca Centrale Europea Trichet, che ha alzato le stime di crescita dell'Eurozona per quest'anno e per il prossimo anno, pur lasciando invariati i tassi all'1%. Probabilmente ancora lo stimolo monetario, c'è ancora bisogno dello stimolo monetario, e però insomma pare che la settimana possa concludersi piuttosto bene per il mercato. Speriamo che il clima non cambi radicalmente nel pomeriggio, quando verrà diffuso il dato sulla disoccupazione americana, perché insomma questo è un dato in grado sempre di condizionare enormemente l'andamento del mercato finanziario. I migliori titoli della seduta a Milano in questo momento sono Autogrill più 1,45%, Finmeccanica più 1,36%, Eni più 1,12%, Italcementi più 0,9%, Intesa San Paolo più 0,86%. Il peggior titolo è Ansaldo, perde quasi un punto, seguito da Prismian, meno 0,78%, la ex Autostrade Atlantia perde lo 0,52%, perde mezzo punto anche Pirelli insieme alla Popolare di Milano. Lasciamo la borsa, in realtà la lasciamo solo relativamente, oggi concentreremo un po' di più il nostro sguardo sull'andamento dei titoli di Stato. Le stime di crescita del vecchio continente migliorano. La Banca Centrale Europea ha fornito ieri rassicurazioni sullo stato dell'economia. Tuttavia, il mercato sembra avere ancora qualche incertezza. e per mettere al sicuro i propri risparmi, come da alcuni mesi a questa parte, si affida ai consueti Bund tedeschi, il cui rendimento di conseguenza è sceso nei giorni scorsi ai nuovi minimi record. I titoli decennali hanno visto il tasso precipitare al 2,09%. Mentre calano i rendimenti tedeschi, non fanno altrettanto quelli dei paesi con rating inferiore alla AAA. L'Irlanda, presa di mira dai mercati in vista della scadenza a settembre di 25 miliardi di euro di bond emessi dalle banche, che dovranno rinnovarli, ha visto il suo spread rispetto al Bund balzare al nuovo record di 358 punti base. L'Italia, sia pure con i BTP in lieve rialzo, ha superato i 171 punti base, a un soffio dal record di 178, in un mercato un po' appesantito dalla forte offerta di titoli in asta. I BTP decennali offerti per 5 miliardi hanno visto una buona domanda, spuntando un tasso in calo al 3,81%. Mentre i CCT EU e i BTP triennali, venduti per poco meno del massimo previsto, hanno registrato tassi in lieve aumento. E viaggiano vicini al record anche Portogallo a 338, Grecia a 937 e Spagna. E insomma, la borsa in questi giorni ci sta costringendo a monitorare più da vicino il mercato azionario. Non vorrei che questa situazione appunto inducesse gli investitori, ma non credono che quelli professionali lo facciano, appunto a spostare oltremodo la loro attenzione e quindi praticamente eclissarsi dal tema titoli di Stato. Credo che invece sia un settore da monitorare attentamente, ce lo dicevamo anche a microfoni spenti con i nostri ospiti di questa mattina. Le borse continueranno assai probabilmente ad essere piuttosto ballerine da qui a dicembre, ma non per questo il comparto obbligazionario governativo, Paolo Federici, sarà più tranquillo. Tutt'altro, le posso chiedere subito come reputa la situazione irlandese, quanto ce ne dobbiamo preoccupare, perché io credo che non si possa definire un quadro simile alla Grecia, che aveva contraffatto i suoi conti per sembrare in ordine, e però l'Irlanda ha un sistema bancario che a settembre deve rifinanziare 25 miliardi di euro di obbligazioni in scadenza. Come giudica questa economia in questo momento? Ma sicuramente è un'economia che ha delle difficoltà, e come è stato detto correttamente, è un'economia che ha delle difficoltà collegate al proprio sistema bancario. In questo senso abbiamo letto sui giornali la vicenda dell'Anglo-Irish Bank, che è una banca che è stata di fatto nazionalizzata all'inizio dell'anno scorso, ha accusato in un esercizio di solo un anno una perdita di oltre 12 miliardi, che è un numero enorme. E essendo una banca nazionalizzata, di fatto lo Stato deve ripianare quella perdita. Quindi Trichet ha voluto ricordare in pubblico al governo irlandese di adottare misure molto serie perché questo in qualche modo non possa diventare un problema. Quindi il problema esiste, va affrontato con serietà. Può essere utile ricordare che il peso dell'Irlanda nell'economia europea non è certo il peso di un'Italia o di una Spagna, quindi l'opinione degli esperti è che... Dicevamo così anche della Grecia, che pesava moltissimo, il 2,5%, poi però a maggio abbiamo tremato tutti quanti, Federici. È assolutamente vero, anche perché poi la paura non è mai guidata dalla razionalità, quindi per definizione è vero. Resta il fatto che il peso comunque del PIL irlandese è quello che è, quindi la percezione degli analisti è che se la cosa dovesse estendersi a paesi della caratura di Spagna e Italia può diventare effettivamente un problema per l'area euro. Non va sottovalutato, ma difficoltà in questo senso si auspica temporanea per paesi come Grecia e Irlanda, stante il loro peso relativo non vengono ritenute a rischio di essere fatali. Però insomma poi la paura del rischio domino ci si riaccende sempre immediatamente. Angelo Drusiani, ancora buongiorno a lei. Ieri abbiamo avuto peraltro un'altra asta anche del tesoro spagnolo, che ha collocato titoli a 5 anni se non mi ricordo male, ma a parte questo, in sostanza a settembre in molti lo hanno già definito, molti dei vostri colleghi, un mese caldissimo per tutte le emissioni che ci saranno. Quali sono secondo lei gli appuntamenti che dovremo tenere sotto osservazione, a parte queste scadenze delle banche irlandesi, con più attenzione o quasi con fibrillazione? Peraltro ho letto anche che la Grecia a partire da settembre comincerà ad emettere titoli di Stato su base mensile invece di fare ricorso ai mercati ogni trimestre. Questa è una novità positiva, negativa? Che significato ha? Sicuramente è opportuno seguire un po' tutte le aste in questo momento, anche perché l'attività speculativa si sta concentrando sulle presunte difficoltà di questi paesi in maniera molto importante, quindi ad ogni asta ci sarà un riscontro, che io mi auguro positivo, per vedere quali potrebbero essere le prospettive dei paesi, del debito pubblico di ogni singolo paese, ma in generale di quello che sono i rischi che sta correndo l'area euro nel suo complesso. Per quanto riguarda la Grecia, la scelta è una scelta razionale, nel senso che di fronte a difficoltà così forti come ci sono in questo momento, per evitare effettivamente che il rischio delle emissioni diventi un'angoscia per il tesoro greco, credo che la scelta di emettere titoli con durata molto breve possa rappresentare quantomeno uno stimolo o quantomeno una minore preoccupazione per il tesoro stesso. Indubbiamente però diventa poi lunga, se dovesse perdurare diventerebbe a lungo andare una situazione insostenibile, nel senso che ogni mese non si possono emettere titoli con la scadenza del mese successivo. I BOT italiani, ad esempio, i più brevi hanno durato 3 mesi, che tra l'altro ultimamente non vengono neppure emessi, quindi secondo me è una situazione di emergenza che dovrebbe servire per colmare quelle lacune che il tesoro greco ha manifestato ad avere in questo periodo. È un modo comunque per confermare il fatto che non siamo ancora completamente fuori dalla tensione per quello che riguarda questo paese, tutt'altro, mi sembra di capire. Assolutamente sì, ma in generale credo che la crisi finanziaria sia stata superata più a parole che a fatti, quindi indubbiamente occorre ancora molta attenzione, l'area euro in particolare, che ha parecchi paesi con rating basso, con debiti molto alti, indubbiamente deve porre molta attenzione, non a caso il Trichet ogni volta lo ricorda questo. Paolo Federici, quanto è stato infastidito il mercato obbligazionario del vecchio continente, quindi dell'economia dell'Eurozona, dalla corsa dello yen? Ma indubbiamente sono oramai mercati molto molto globali, quindi c'è una immediata, lo si citava prima anche rispetto al dato della disoccupazione americana, sembra a molti utenti non addetti ai lavori può sembrare anche un po' strano, no? Voglio dire, sì, che gli ci Stati interessiamo Uniti, a quel dato, certo. Esatto, hanno, fra l'altro poi c'è un modo di calcolarli molto particolare, quindi è strano che i mercati se ne occupino. Il tema della corsa dello yen ha a che fare più con il tema, come dire, movimenti speculativi tra valute che sul ruolo effettivo dell'economia giapponese. Il Giappone è sempre stato un po' un'eterna promessa e molti dicono neanche mai particolarmente ottenuta, quindi ha avuto la possibilità di recuperare, però poi devo dire che anche nella nostra esperienza con gli investitori italiani il Giappone difficilmente viene considerato come un'area, anche perché ha dei vicini certamente più brillanti che sono appunto i cosiddetti paesi emergenti, soprattutto dell'Asia, è così importante. L'attività dello yen io la considero un'attività legata appunto ai temi speculativi tra valute e quindi in questo senso non ha, se non per gli addetti ai lavori, più di tanto modo di condizionare gli andamenti della parte anche obbligazionaria europea. Gli andamenti della parte obbligazionaria europea hanno in larga parte ragioni che risiedono, ahimè, stavolta in Europa e quindi come tali dovremmo andare a cercarle lì. No, tanto per magari soffermarci ancora 2 secondi sull'indicazione che ha dato prima sul fatto e sul motivo per cui dovremmo interessarci, ci interessiamo sempre molto al dato sulla disoccupazione americana. Se gli americani non lavorano non consumano, visto che sono tradizionalmente gli spendaccioni e praticamente con la loro spesa danno un impulso praticamente quasi totale, la spesa per consumi rappresenta i 2/3 del PIL americano, se non ricordo male, questo mi sembra la proporzione, e insomma chiaramente possiamo capire quanto si condizioni tutto vicendevolmente. Perché viene calcolato in maniera complicata il dato della disoccupazione statunitense? Insomma, la deve togliere questa curiosità. Ad esempio, come dire, quando in America si cerca lavoro e oltre un certo periodo non lo si è trovato, in America si esce dalle statistiche, molto semplicemente, perché si parte dal principio che in America se uno vuol trovare un lavoro, magari a $8 all'ora può trovarlo. Quindi oltre un certo periodo semplicemente non si è più computati, che ovviamente non è il caso europeo, quindi il fatto che possano diminuire non necessariamente vuol dire che questi signori abbiano trovato poi il lavoro. Infatti. 800 24 00 24, curiosità che naturalmente ci piace soddisfare, ma noi poi nella seconda parte di Salvadanaio ritorniamo al settore obbligazionario, come sempre partendo poi dal presupposto generale e dai temi economici generali, noi andiamo dritti anche ai portafogli delle famiglie per capire che tipo di obbligazioni scelgono, quale favoriscono, quali preferiscono. Siamo ritornati a Salvadanaio, ancora buona giornata da Deborah Rosciani. Oggi l'appuntamento del venerdì è abbastanza frequente che noi il venerdì affrontiamo un po' lo scenario di mercato. Peraltro noi oggi parliamo di obbligazioni governative in termini generali alla luce di quello che è accaduto negli ultimi giorni, la diminuzione e la riduzione del giudizio sull'Irlanda, quindi il timore che anche questo paese possa soffrire di un rischio default, e poi la corsa dello yen e quindi tutti i movimenti sulle valute, tante vicende che stanno condizionando appunto le scelte di investimento degli investitori nel settore obbligazionario. Vi ricordo che anche questo tema sarà trattato domani da Plus 24 del Sole 24 Ore. Noi stamattina invece lo affrontiamo con Paolo Federici, responsabile per la distribuzione di Fidelity International in Italia, e Angelo Drusiani, responsabile delle gestioni di banca Albertini Seeds. Allora, Ritorniamo un po', c'è un ascoltatore che ci ha chiamato, io adesso non ho chiesto appunto di metterlo in collegamento con noi perché chiede informazioni sulla sostituzione delle azioni all'Italia in titoli di Stato. Allora, una bella vicenda questa, Mauro, sulla quale stiamo cercando da settimane di documentarci proprio per architettare possibilmente una puntata, e siccome non ne veniamo a capo neanche noi, allora fare una trasmissione per non dire niente, abbia ancora un po' di pazienza. Questo switch sarebbe dovuto avvenire credo a marzo scorso, se non ricordo male, ma non credo proprio che sia venuto un bel niente. Ci dia ancora qualche settimana di pazienza, spero anche meno, per poterci organizzare appunto una trasmissione utile per tutti. Allora, Angelo Drusiani, ritorno da lei. Abbiamo citato prima nella nostra scheda, questo per ritornare un po' anche alle emissioni del Tesoro italiano, un'asta che si è tenuta negli ultimi giorni anche di CCT EU, nuovi strumenti obbligazionari del Tesoro italiano indicizzati all'Euribor. Ci spiega che caratteristiche hanno questi strumenti, come funzionano? L'aspetto fondamentale è che il titolo evidenzia cedole variabili che si modificano ogni 6 mesi, quindi ad ogni stacco cedolare la cedola può cambiare. La prospettiva è che cambi in aumento, nel senso che il tasso Euribor è il tasso che le banche di area euro si scambiano ogni giorno per chiudere i propri conti, quindi viene fissato un tasso con durata 3, 6, 12 mesi, ci sono anche tassi più brevi, 1 mese, 2 mesi e così via, però quelli più importanti sono i tassi con scadenza 3, 6, 12 mesi. Il tasso Euribor a 6 mesi il CCT collegato al tasso Euribor a 6 mesi in pratica sostituisce il vecchio CCT, la cui cedola era collegata, e ancora per quelli che sono in vita collegata, al rendimento dei bond a 6 mesi, qui viene aggiunto uno spread, una maggiorazione. Nel caso del CCT Euribor la maggiorazione è molto alta perché è 80 centesimi, quindi offre in prospettiva dei rendimenti interessanti. Laddove l'inflazione, come faceva ieri presente il Trichet, dovesse cominciare a salire, è chiaro che le cedole di questi titoli dovrebbero cominciare ad aumentare, quindi a mio parere, anche se difficilmente in tempi brevi assisteremo ad un rialzo dell'inflazione, quindi alla possibilità che i tassi aumentino, però avere in portafoglio una quota anche non rilevante di questi titoli rappresenta sempre una strategia interessante, secondo me. Allora, tra l'altro, poi sul tema della condizione finanziaria del nostro paese abbiamo speso veramente fiumi di parole e molti hanno anche elargito giudizi di ogni genere, però tutto sommato la fiducia verso lo Stato italiano non è mai venuta meno, nonostante si sia temuto un effetto negativo anche dalla pioggia di questi downgrade, di queste riduzioni di giudizio per il debito sovrano di altre economie, una pioggia che appunto si è abbattuta proprio sui debiti dell'economia dell'Eurozona negli ultimi mesi, soprattutto oltre all'Irlanda anche nei confronti delle altre economie in maggiore difficoltà come la Spagna. L'Italia non ha subito nessuna retrocessione di giudizio da parte di Fitch, da parte di Moody's, da parte di Standard & Poor's, per merito della tenuta che ha saputo dimostrare appunto di fronte alla recente crisi finanziaria ed economica mondiale. Il Tesoro non ha cancellato nessuna asta in calendario, non ha dovuto anche offrire tassi di rendimento fuori mercato per attirare degli acquirenti, eppure però ancora qualcuno ha la tentazione di giudicare non ottimamente il nostro paese. Paolo Federici, voi intanto che posizione date al titolo di Stato italiano all'interno dei vostri fondi? Allora, intanto diciamo che in generale Fidelity non ritiene che l'Italia abbia problemi di solvibilità, premesso che chiaramente deve fare attenzione ai propri conti, perché poi i conti si basano sul gettito fiscale, che vuol dire anche crescita, e crescita, siamo chiari, non c'è. Quindi è evidente che bisogna essere molto attenti alle spese. Ancora in questi giorni ci sono state delle segnalazioni del Fondo Monetario piuttosto che da altre entità che hanno in qualche modo detto che l'Italia è abbastanza vicina a quella soglia in cui rischia di essere, non dico in difficoltà, ma percepita dagli analisti come in difficoltà, e quindi potrebbe implicare una possibile revisione dei propri rating. Noi riteniamo che non abbia problemi se si mantiene in una posizione fiscalmente saggia. È in generale però vero che per chi detiene titoli c'è stata in questo periodo una volatilità che non si era quasi mai vista prima, e questo può essere rilevante nel momento in cui un cliente per mille ragioni si trovi a doverlo smobilizzare quel titolo, cioè a doverlo vendere. Per chi il titolo lo tiene in portafoglio probabilmente ricorderà questo periodo come un po' d'otto volante e poco altro. Chi invece il titolo per qualunque ragione si dovesse trovare a doverlo vendere potrebbe ricordarlo come qualcosa di un pochino più serio, perché qui da un giorno all'altro le cose possono cambiare anche in maniera importante, e qui ci possono essere delle strategie difensive da applicare. Ce ne cominci ad indicare qualcuna? Ma la prima cosa è quella di capire che cosa serve. Allora, diciamo che adesso il problema in primis è quello dei tassi bassi, soprattutto sui titoli di Stato, diciamo per esempio italiani, non è tanto quello della solvibilità. Quindi i tassi sono molto bassi, abbiamo sentito parlare anche per esempio della Germania. Se uno vuole un titolo solido come il Bund, 2% a 10 anni, cioè è quasi come non aver nulla. La possibilità migliore è quella di, a nostro avviso, avere un mix di titoli corporate e titoli di Stato. Perché i titoli corporate? Perché offrono rendimenti migliori, evidente, però c'è un rischio, perché se l'economia rallenta poi queste aziende faranno meno fatturate, quindi faranno un po' più fatica a ripagare il proprio debito. I titoli di Stato sono chiaramente molto più liquidi, quindi bisogna averli in portafoglio, però i rendimenti sono quelli che abbiamo sentito. Il nostro suggerimento è quello quindi di comprare un fondo che tipicamente ha almeno un centinaio di titoli al proprio interno, quindi anche se uno di questi titoli ha qualche difficoltà impatta sull'1% del portafoglio, non sull'interno interezza ad esempio, e che possa quindi avere i vantaggi della liquidità dei titoli di Stato da una parte e quella dei rendimenti dei titoli corporate dall'altra, delegando al gestore quanti e quali averne in ogni momento. Mm-hmm. Per dare un'idea del tutto indicativa, al di là del fatto che i fondi hanno una tassazione molto più favorevole ad esempio di quella che può avere la liquidità di un conto corrente, e un fondo come il Fidelity Eurobond, che fa appunto questo, dall'inizio dell'anno ha portato a casa, per chi l'ha sottoscritto, un dato che è abbastanza impressionante, che è il 9,5%, un dato che difficilmente si ritrova sul mercato, ma soprattutto per chi ha voluto andare in vacanza, come dire, dando fiducia a quel prodotto nell'ultimo mese, quindi mentre il cliente era sotto l'ombrellone, con tutta la volatilità che abbiamo visto, ha fatto il 2,7%. Avete frustato i gestori, cosa avete fatto? Insomma? E continueremo a frustarli. La strategia difensiva invece che è necessario mettere in atto in questo momento per proteggere il proprio denaro, Drusiani, dalle oscillazioni che probabilmente ci saranno da qui ai prossimi mesi, qual è Drusiani, la vostra? Negli ultimi tempi c'è una forte suddivisione degli investitori, c'è chi cerca sicurezza e chi cerca rendimento. Chi cerca sicurezza, ahimè, si rivolge ai titoli tedeschi in particolare, la cui redditività francamente è troppo bassa. Tutte e due le cose insieme non si possono ricercare. Sì, si possono fare, io credo che la via di mezzo sia quella di optare per una parte della sicurezza, una parte dei rendimenti molto alti, scegliendo anche titoli tipo quelli cui lei faceva riferimento prima, quindi irlandesi e greci, perché una quota minima in portafoglio di titoli ad alto rischio secondo me rappresenta comunque una scelta da seguire. E poi c'è la via di mezzo che è rappresentata dai titoli di Stato italiani e dalle obbligazioni societarie che hanno ancora alcune, non tutte, ma hanno ancora dei rendimenti abbastanza interessanti. Il collega poco fa parlava dell'alto rendimento che offrono i titoli, le obbligazioni societarie in generale. C'è stato un restringimento notevole del differenziale di rendimento che c'era fino a qualche tempo fa fra le obbligazioni societarie e i titoli di Stato, e questo si è trasferito in un aumento dei prezzi, quindi indirettamente in un rendimento per chi ha investito in questa tipologia di titoli. E io credo che ancora in prospettiva ci siano una serie di obbligazioni con un rating non particolarmente elevato che offrono dei rendimenti molto, molto interessanti, e anche titoli e di Stato e societari con durata medio-lunga che pagano dei rendimenti che sono, secondo me, per quanto riguarda un portafoglio moderato, sono abbastanza interessanti. Ho letto in questo. Io ritengo che le famiglie italiane siano ancora decisamente affezionate ai titoli del proprio paese, ai titoli di Stato del proprio paese, e però leggo che invece da qualche monitoraggio risulterebbe che le famiglie cominciano ad essere un po' più disaffezionate a BOT e CCT, e questo naturalmente è un atteggiamento determinato dal fatto che i rendimenti di questi strumenti stanno riducendosi sempre di più, lo abbiamo detto chiaramente, soprattutto le scadenze brevissime, qualche volta addirittura dobbiamo pagare la banca tra commissioni e tasse per poter appunto sottoscrivere questi investimenti. Io vorrei capire dove sta la verità, siamo ancora, perché comunque diciamo la tenuta delle aste del nostro paese è stata attribuita in larga parte anche al fatto che comunque anche le famiglie hanno largamente frequentato questi appuntamenti del tesoro negli ultimi mesi, oltre agli investitori istituzionali, Federici. Dove sta la verità in sostanza? Le famiglie secondo lei sono o non sono posizionate sui titoli del debito domestico? Allora, lo sono state storicamente e lo sono ancora oggi certamente. Che cos'è che sta cambiando rispetto a prima? Io distinguerei per scadenze, cioè quello che era il tipico cliente da bot, vuoi perché poteva aver bisogno dei propri soldi, vuoi perché magari non voleva impegnarsi oltre un certo periodo, che possano essere appunto quei 12 mesi che venivano citati prima, oggi sta veramente veramente rischiando di pagare tra commissioni e altro tutto l'interesse, forse anche qualcosina di più. Quindi magari non si vuole affrontare il problema, però il problema c'è, quindi quella non è più un'alternativa. Tenere i soldi sul conto corrente tra tassi e tasse, mi verrebbe da dire, può essere effettivamente un problema. A questi signori tipicamente sempre più vengono proposti prodotti cosiddetti di breve termine, cioè sempre fondi che in questo senso però possono di nuovo approfittare di una serie di strumenti comunque molto sicuri e molto liquidi, che però sono riservati agli operatori istituzionali, e prodotti di questo genere come quelli che possiamo avere noi in casa hanno prodotto risultati molto importanti, anche in alcuni casi superiori al 4%, per prodotti che sono super liquidi. Qual è il tema invece sulle scadenze più lunghe? Il BTP, per chi è affezionato, può essere ancora un pochino, come dire, un'opportunità, anche se i tassi, si dicevano, sono molto elevati. Lì però il fatto che stiano aumentando gli investitori istituzionali è di nuovo non sorprendente, perché molto spesso il cliente che prima deteneva il BTP oggi tende a comprare ad esempio un fondo. Cosa fa il fondo? Non è che inventa il sottostante, anche il fondo compra tra l'altro il BTP. È quel famoso investitore istituzionale, esatto, che sostituisce con la differenza famiglia, che magari invece dell'intero euro che prima veniva comprato in BTP, oggi di quell'euro che poi va in un fondo magari ne va a 30 centesimi il BTP, gli altri 70 vengono usati per diversificarlo. Senta, volevo ritornare per un attimo, anche se adesso abbiamo i suggerimenti per chi è in viaggio, come si chiama il fondo che mi citava prima, che ha registrato un più 9% all'inizio dell'anno, Fidelity di casa vostra? Euro Bond Fund. Quanta Spagna, quanta Irlanda e quanta Grecia c'è dentro? Allora, ci sono dentro? Noi siamo molto laici sull'argomento, nel senso che riteniamo che ci siano, in base alla ricerca proprietaria, dei momenti, e qui sono d'accordo con quanto il collega diceva prima, momenti per avere un po' le varie cose. Se vuol sapere, sono più o meno in linea con la porzione, quindi comunque poca, perché per esempio Grecia e Irlanda pesano molto poco. Non siamo molto speculativi su questo tipo di cose, non riteniamo che di voler mettere, per capire se comunque sottoponete implicitamente i vostri clienti generale, ad un po' di rischio. In qualche caso siamo stati molto attivi invece nell'essere difensivi. Le faccio un esempio: la Spagna invece comunque qualcosa pesa sull'indice, evidentemente. Quando noi abbiamo ritenuto che fossimo prossimi a un downgrade della Spagna, che non era però ancora stato annunciato, non abbiamo sottopesato la Spagna, abbiamo portato completamente a zero. Quando è arrivato abbiamo evitato completamente, merito al gestore e chiaramente nessuna palla di cristallo, e quello però è il lavoro che deve fare, però è quello che ci sapere anche con lui, un filo di anticipo un po' le notizie che possono arrivare, se possibile. Eccoci ritrovati a Salvadanaio per l'ultima parte della nostra trasmissione, per l'ultima puntata della settimana, e oggi monitoriamo un po' l'andamento dei mercati. Volevo fare la stessa domanda, anche se poi non ho fatto raccontare ad Angelo Drusiani che fondi in casa propria hanno, che hanno magari ottenuto, come dire, performance interessanti dall'inizio dell'anno, fondi di natura obbligazionaria e governativa, e chiedo appunto quanto ritengono che sia il caso di esporsi sulle economie che sono considerate non a rischio default, e speriamo di non dover vedere questo scenario nel nostro continente prossimamente, ma comunque insomma sono, come dire, considerati paesi dalle condizioni finanziarie traballanti. Drusiani. Sì, noi abbiamo fatto scelte di tipo diverso, nel senso che abbiamo investito in tipologie di strumenti che hanno durata molto lunga. Mi riferisco ad esempio ai perpetual, che sono obbligazioni in teoria senza scadenza, che però consentono all'emittente di riscattare prestito laddove dovesse decidere di farlo in certi periodi. Tra l'altro io, mi scusi se la interrompo un attimo, credo di aver parzialmente toccato il tema in una delle ultime puntate di Salvadanaio prima delle vacanze, perché forse c'è una grande banca italiana che ne ha emesso uno recentemente, Unicredit. Sì, esattamente, sono titoli che hanno delle cedole molto alte, che consentono dopo 10 anni dall'emissione di trasferire il titolo da cedola fissa a cedola variabile con una maggiorazione sulle tasso Euribor a 3 mesi, generalmente molto molto alta. Cedole quindi molto alte quanto, per esempio? Ad esempio alcune sono superiori al 6%, 7% lordo, naturalmente comunque sono cedole di un certo rilievo, anche perché avendo una durata così lunga è chiaro che per riuscire a collocare i titoli occorre pagare dei rendimenti molto molto tutti alti. Gli stati ne emettono, Drusiani? Gli stati sono rarissimi quelli che hanno messo dei titoli per questo, ma le obbligazioni societarie sono le società, sono le banche in generale, le banche e le assicurazioni che tendono ad emettere questa tipologia di titoli, perché soprattutto le banche italiane offrono delle garanzie abbastanza importanti. per gli stati le durate perpetue sono rarissime, mentre anche alcune società italiane, mi riferisco ad esempio alla Telecom, ebbe il coraggio alcuni anni fa di emettere un titolo cinquantennale, quindi è sulla base di questi titoli che i rendimenti che si ottengono in portafoglio sono molto molto elevati. L'anno scorso ad esempio abbiamo sfiorato il 20% di rendimento sulla nostra Oyster Corporate Bonds, quest'anno siamo attorno al 5%, quindi sono rendimenti molto alti che tengono conto non solo delle cedole ma dell'incremento del prezzo in conto capitale. Quindi diciamo che voi in questo momento state un pochino orientando i vostri clienti su questi prodotti? Su questi strumenti? Ci sono clienti assegniamo questa tipologia di prodotti, ma sono prodotti che vengono richiesti proprio perché sono molto trasparenti, hanno un'ottima redditività. Sono molto liquidi, come diceva il collega prima, si possono vendere nell'arco di 3 giorni, quindi non ci sono particolari problemi. Di conseguenza, fino a che la situazione dei tassi rimarrà questa, fino a che non ci saranno avvisaglie di rialzo dei tassi, credo che i risultati saranno abbastanza interessanti. Insomma, dovremmo cominciare a documentarci meglio su questo tipo di prodotto di investimento, Federici? Diciamo che non ce ne sono poi così tanti, ahimè, da potersi documentare, spesso sono appannaggio degli investitori istituzionali, per chi ha un mutuo potrebbe essere interessante, perché effettivamente danno ritorni come flusso cedolare, come si diceva correttamente, quasi fuori mercato da un certo punto di vista, proprio perché hanno una scadenza di questo genere. Senta, c'è una domanda per lei di un ascoltatore al 349-238-66, se hai visto che ho declamato, cioè mi ha raccontato di quanto faceva il vostro, parliamo di obbligazioni in area euro, hanno un fondo in casa, mi ha raccontato quanto ha fatto questo fondo, ma ovviamente l'ascoltatore chiede, e quanti sono i fondi di questo signore in perdita da inizio anno? Dove siete un po' più in difficoltà, Federici? Allora, questa è una bella domanda. Sulla parte obbligazionaria non ce ne sono. Mi verrebbe da dire che gli unici fondi che possono avere, come dire, difficoltà, nel senso che per noi vuol dire essere intorno alla pari, cioè non che il cliente ha perso ma che non ha guadagnato, perché poi noi ci diamo l'obiettivo non solo di non farlo perdere, ma se Dio vuole di essere felice e poi di essere felice di stare con noi, quindi avere una remunerazione, sono i fondi di liquidità pura. Cioè i fondi di liquidità pura con questo scenario fanno fatica a ripagarsi le commissioni e, come noi abbiamo detto in molti contesti, non hanno nessun senso, per la stessa ragione per cui non ha senso tenere una particolare liquidità sul conto corrente, non ha neanche senso metterla in un fondo di liquidità, neanche di Fidelity in questo senso, ecco perché parlavamo di short term, perché allungando di un pochino la scadenza dei titoli sottostanti ma non toccando la liquidità del fondo si può fare molto molto meglio. E gli altri possono essere fondi che possono avere a che fare con i singoli mercati, nel senso che non so, un mercato come l'Italia notoriamente all'inizio dell'anno non è inattivo, e quindi in questo senso magari perdere un po' meno dell'Italia può L'Italia ancora voler dire meno 15, se non ricordo male, esatto. Noi abbiamo fatto meglio di così, ma siamo comunque in territorio negativo, perché poi dovendo investire in titoli che poi di fatto sono comunque tutti scesi, per quanto uno voglia essere bravo, farà comunque insomma, speriamo di aver accontentato anche questo ascoltatore. Angelo Drusiani, visto che peraltro lei è il nostro esperto di comparto obbligazionario, ha scritto anche dei libri per il Sole 24 Ore, guida proprio all'investimento in titoli di Stato, ed è la sua firma spesso presente su questi argomenti sulle Sole 24 Ore. C'è un ascoltatore che dice: non parlate di ETF, ci sono questi strumenti a gestione passiva che puntano anche sulle obbligazioni, è possibile replicarle passivamente? Sì, ci sono parecchie offerte sia per corporate bond, sia per titoli di Stato, sia per titoli di paesi emergenti, quindi la scelta è molto ampia anche in questo senso. L'aspetto interessante di questa tipologia di strumenti finanziari, così come lo sono i fondi, è la possibilità di diversificare da parte del gestore il patrimonio, il capitale che incassa, che riscuote, in maniera tale che l'esposizione al rischio per ogni singolo titolo è molto molto bassa, quindi i rendimenti che si ottengono sono interessanti, i costi credo che siano molto bassi, quindi è sicuramente una sorta di strumento in cui investire, accanto ovviamente ad obbligazioni e ad altre tipologie di strumenti che si possono trovare sul mercato. Allora, intanto continua ovviamente la leggenda che abbiamo creato intorno al fondo di Fidelity, che ha fatto più 9% all'inizio dell'anno, perché c'è ovviamente qualche ascoltatore che chiede dove possiamo trovare il nome del fondo che ha fatto questa prestazione di Casa Fidelity. Tra l'altro, no, raccontiamo magari anche rapidamente, perché poi ovviamente qua qualcuno mi dirà che faccio pubblicità alla vostra azienda, però tanto almeno siamo qui anche per documentare un po' le famiglie su come si possono guardare intorno. Voi distribuite i vostri fondi attraverso reti di promotori finanziari di altre aziende. È corretto, il fondo si chiama Fidelity Euro Bond Fund, che vuol dire semplicemente fondo di obbligazioni europee, nonostante ahimè il fatto di avere come dire un mercato europeo implica di avere, ahimè lo si diceva prima, un po' troppo inglese, proveremo a convincere qualcuno a mettere nomi italiani ai fondi se riusciamo. Si possono, dove si possono comprare questi fondi? Si possono comprare tipicamente tramite tutte le reti di promotori, e per quelli che sono clienti di private banking, tipicamente proprio presso questo. Poi esistono piattaforme online per quelli che avessero la propria banca che ancora non è nell'architettura aperta, quindi non distribuisce anche case terze, che possono offrire questa possibilità. La cosa più semplice è andare a chiedere. Abbiamo l'onestà intellettuale di dire, Federici, che però la, come dire, performance del passato non è garanzia di performance del futuro. Ma ci mancherebbe altro. E questo, come abbiamo detto, infatti noi garantiamo di frustare il gestore, ma non che dopo le frustate riesca a fare sempre così bene. Allora, noi abbiamo ancora un paio di minuti di tempo prima di salutarci. Direi che però a questo punto dobbiamo concludere, ovviamente ritornando un po' a guardare a quello che potrebbe accadere nei prossimi mesi. Quali saranno, Angelo Drusiani? Rimaniamo alle obbligazioni del vecchio continente, dell'Eurozona, tra i timori che abbiamo già citato. Quali saranno le opportunità a cui magari una famiglia italiana che ha una vocazione prudente di gestione del proprio risparmio, a quali appuntamenti dovranno guardare così con un occhio un po' di coraggio e di serenità, a quali appuntamenti invece sarà bene che si tengano lontani? Credo che la preoccupazione maggiore possa essere quella legata non tanto al default delle aziende, quanto alla possibilità che i tassi salgano nell'arco dei primi mesi del 2011. Io credo che fino ad allora grosse preoccupazioni non ce ne saranno, anzi secondo me vale la pena anche in un portafoglio moderato inserire delle emissioni, degli strumenti che offrono dei rendimenti molto elevati, al di là dei titoli di Stato dei paesi a cui faceva riferimento prima, anche obbligazioni del tipo societario, in particolare del comparto automobilistico e telefonico, che offrono dei rendimenti molto molto alti, perché si tratta di aziende molto indebitate, quindi che devono pagare parecchio per accedere al mercato. E insomma, quindi come ricetta conclusiva anche per Paolo Federici, in vista di una risalita dei tassi dal, non so se da subito, se Trichet comincerà a rimettere mano ad una politica restrittiva, ad una politica monetaria restrittiva dall'inizio proprio del prossimo anno, ma in vista di una risalita dei tassi, allora come rimodifichiamo adesso il nostro portafoglio di investimento? Però noi consigliamo di non essere tra virgolette troppo corti, cioè oggi di non avere fondi che investano troppo a breve, perché dicevamo i tassi a breve sono molto bassi. Laddove si dovesse parlare di rialzo dei tassi, che vuol dire per essere pratici che si parla di una ripresa dell'inflazione, ci sono due cose che si possono fare che di solito aiutano. Una è accorciare la durata, cioè andare su fondi che investono invece su titoli a più breve scadenza, che quindi sono meno soggetti a queste oscillazioni, e l'altra è investire in titoli, in fondi che siano collegati all'inflazione proprio. Quindi una ripresa dell'inflazione in questo senso diventa addirittura un motore di crescita per il fondo. Combinarli può essere un'idea. Grazie per la concretezza delle vostre idee di investimento e dei nostri suggerimenti alle famiglie che ci ascoltano. Grazie a Paolo Federici di Fidelity International, Angelo Drusiani di Banca Albertini Sitz. Noi di Salvadanaio ritorniamo naturalmente lunedì e ritorniamo con gli appuntamenti tradizionali delle famiglie italiane. Vi ricordate, abbiamo fatto una puntata prima delle vacanze sul caro dei libri di testo per la scuola. Noi lunedì ci ritorniamo su questo argomento per capire come in questo frattempo le famiglie si sono organizzate per non dilapidare completamente il proprio portafoglio. Grazie a tutti, buon fine settimana lunedì. Salvadanaio.